I never thought I could be infatuated of the gangster. I never thought could be infatuated of the gangster. The replay of the shot of the human nature sinner. Heaven dancer. Non avrei mai pensato di potermi innamorare così tanto delle armi, tanto da sforzarsi e sparare con tutte le sue catene. Non avrei mai pensato di innamorare così tanto delle armi, tanto da sforzarsi e dare fuoco a tutte le mie catene, a tutte le mie catene. Non ho mai pensato di potermi innamorare delle armi, tanto da sforzarsi insieme. Yeah. I never thought I could be infatuated of the gangster. The replay of the shot of the human nature sinner. Heaven.